fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontarvi. E buonasera ragazzi, io sono in dolce compagnia di Gaspare. Gaspare, sì, che si sposa il 10 giugno, felicemente, padre di una figlia di 2 anni e mezzo. Come si chiama? Nicole. Nicole, Nicole, adesso, bel nome. Sì, grazie. Adesso vengo qua a festeggiare con i miei amici per l'ultimo giorno, diciamo, tra virgolette. È giusto, è giusto, da single, più diciamo o meno, così, più, dai. Più o meno, però dai, meno. Ci sta. Vi siete divertiti? Ci stiamo divertendo perché è ancora la fine della serata. Beh, spero che continua, diciamo che sia un po' così. Bisogna un po' alimentare un po' la fiamma, diciamo. Ma tu scommetto che sei l'animatore di gruppo. No, è quello il problema, che io sono animatore. Dunque, manco col piccola. Da dove vieni, Gaspare? Io vengo da Coccaglio, Coccaglio di Franciacorta. Ecco, se adesso arriviamo a cantare, vai che ci stiamo. Vai, prenotate che arriviamo. Devo andare a cantare per quello. Cosa cantate? Quello che vogliono. Scelgono loro e tu canti. Intanto questa è una bella presentatrice. Come ti chiami? Valentina, allora io auguro a tutti che vengono al convento. Sicuramente devo conoscere Valentina, una bella persona. Grazie. Fisica e anche morale, una bella persona, diciamo. Grazie. Adesso vabbè. Sono qua, sono le 2 di notte più o meno, ci stiamo divertendo, sì. Ci stiamo raccontando, bene, ci stiamo bene. Valentina, io sono contento di averti conosciuto. Io ti ringrazio e ti lascio uscire, sì, per cantare, perché infatti, vedo che i tuoi amici stanno quasi entrando. Spero che hanno prontato, dai. Va bene, okay, grazie mille, Gaspare, buona serata, ciao. Bacione.